Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo di Babilonia Teatri Made in Italy di e con Valeria Raimondi ed Enrico Castellani. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica lo giuro, alzo il braccio destro, incrocio l'indice di bacio, faccio il pugno chiuso, porto la mano destra al cuore, giuro sulla testa delle mani, delle pari, delle fiori, sulla mia, giuro davanti a Dio, giuro sulla Bibbia, giuro sul Corano. Momento.

torna da te e dalla pelle al cuore sono davanti a te. Tutturu turu tutu tutturu turu tu tutturu turu tutu tutturu turu tu. Diesero ore, 5 euro, 50 euro, da 20 persone, 1000 euro, da 365, 292.000 euro, da ogni pasto, pagalato, sottrarre, giorni di pioggia, 292.000 euro, e scheri, scheri, fa scheri, una volta di scheri, scheri, oseri, finché viene il ciappello, le nere costano poco, le schiave se possono ti curano, le italiane si la tirano, 1000 euro al metro quadro, 100 metri cubi, 10.000 euro, 1000 ettari, 50 finali, 2000 campi, 100.000 euro, 400 casse, 900 prodotti, 200 quintali, 3000 campi, 1 milione di euro, 10 capannoni, un permesso, 3 varianti, 4 ristrutturazioni, 7 IRPEF, 3 ICI, 10 IVA, 9 IRAP, 7 e 4 di interessi, 2 e 5 di svalutazione, 1 e 1 di ammortamento, 3 e 6 di usura, mutuo prima casa, mutuo seconda casa, mutuo terza casa, 2 anni di fidanzamento, 1 anno di sottotitoli, 1 anno per il matrimonio, 2 anni di matrimonio, 1 anno di sottotitoli, 1 anno su nel giro a fare la vita a tutti, perché non era mia buona per stare incinta, e devo a farsi le sedie davanti ai dottori, parte di essere funzionale, sopra sta incinta, ma fortuna, sei usa ordina multipla, ne fa tutte le analisi che esiste al manco parte volte, se nel mungolo non lo vuoi mia, non vuoi mia che sia maschio, ho paura che sia curato, 5 pannolini al giorno, 35 pannolini a settimana, 140 pannolini al mese, 1680 pannolini all'anno, 4 anni, 5040 pannolini, 5040 pannolini di merda, una moto di merda, tempo, pulsioni, di fatto che dolore, pago le tasse, pago il nero, pago la luna, pago la vigile, pago la banca, pago le prove, una cuccia, quante ne vuoi, un cucciaio, due cucce, quante ne vuoi, un cucciaio, tre cucce, quante ne vuoi, un cucciaio, prima rotonda, secondo cavalla via, terzo svincolo, le sbarre sono poche, le nere hanno la bocca grande, le italiane sono morbide, 100 euro alla ragazza, 10 ragazze, 1000 euro, 150 euro a persona, 100 persone, 15.000 euro, meno 1000, 14.000, 14.000 euro a sera, e per 30 sere, fatto per 120.000 euro, 420.000 per 12 mesi, fa 5 milioni e 40.000, 5 milioni e 40.000 euro di escape, scale a scale, una nota di escape, scale o sei, finché viene il ciappello, dopo la bocca la lingua, dopo la lingua le tette, dopo le tette la figa, dopo la figa il culo, dopo il culo metà come cicca, sarà gli occhi, cazzi la bocca, sotto ci tocca, osteria numero 0, e lo lungo come un cielo, osteria numero 1, tu c'è un cazzo, io 31, osteria numero 2, le mie gambe caliture, osteria numero 6, alle donne che piacciono io 6, osteria dell'oste scuro, il mio cazzo è sempre duro, osteria dell'oste chiaro, il mio cazzo è uno sparo, poligono, da 100 metri, 50 colpi, tra centri, stazione di tiro, 10 secondi, concentrazione, galleria di tiro, 1 secondo, proiettile passante, area fermapale, sauna, primo centro, stazione di tiro, 10 secondi, concentrazione, galleria di tiro, 1 secondo, proiettile passante, area fermapale, sauna, secondo centro, stazione di tiro, 10 secondi, concentrazione, galleria di tiro, 1 secondo, proiettile passante, area fermapale, sauna, terzo centro. Lo spettacolo di Babilonia Teatri Made in Italy di e con Valeria Raimondi ed Enrico Castellani. L'agenda della settimana teatrale. Con lavoratori e lavoratrici dello spettacolo per presentare Presidi Culturali Permanenti Roma. Bentrovati. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti e a tutti. Ci raccontate di questa realtà? Noi siamo un gruppo molto eterogeneo di attrici, attori, maestranze, danzatori che molto spontaneamente, dopo l'annuncio della chiusura dei teatri, ha deciso di trovarsi davanti al Teatro Argentina. L'invito era molto libero e esteso a chiunque volesse partecipare, vieni con un semplice A4 e le tue rivendicazioni. Ci teniamo a dire che il nostro intento non era assolutamente rivendicare l'apertura dei teatri, ma prima della manifestazione del 30 a Senso Spettacolare, ribadire che chiediamo dei protocolli rispetto dei protocolli di sicurezza, chiediamo un sostegno economico e chiediamo soprattutto una visione

le performance che vanno sul remoto sono progettate per il remoto e per il digitale, ecco, non è un surrogato. E poi, per rispondere all'altra domanda, ad ora siamo su una quarantina di libri, più i nostri sei, che noi siamo sei attori, due attrici e quattro attori, con il coordinamento di Marco Lorenzi e Alba Maria Porto, e appunto stiamo lavorando a sei romanzi diversi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Il nostro sito è www.ilmulinodiamleto.com, e il nostro Facebook è Il Mulino di Amleto, è una compagnia teatrale di Torino, che ha sede a Torino, ma insomma fino a che è stato possibile mi ha fatto le tournée in tutta Italia e ci mancano. E poi Instagram è Il Mulino di Amleto, e lì troverete proprio anche per iscriversi a questo progetto. La mail invece è info@ilmulinodiamleto.com. Fahrenheit Art Needs Time, sì. Il progetto del Mulino di Amleto. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Barbara Mazzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te davvero e a voi tutti. Grazie, a presto. Con Angela Antonini, co-direttrice artistica del progetto Puro Teatro, online dal 30 novembre al 23 dicembre 2020. Angela, ben trovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Ci racconti? Siamo in piena attività con questo progetto Puro Teatro, una rassegna che esiste già a Roma dal 2015, ma che in questo caso è stata proposta all'interno di questo avviso pubblico di Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022. Abbiamo vinto il bando partecipando insieme a Teatro Revis con la co-direzione artistica, appunto con Andrea Fazzini, e adesso appunto siamo qui e stiamo presentando i lavori che abbiamo in programmazione quest'anno. Com'è stata la scelta di questi lavori? Diciamo che Puro Teatro nasce essenzialmente, poi non è una regola così rigida, però essenzialmente nasce a Roma per, diciamo, dare voce, dare spazio ad una realtà più ampia, che è quella degli artisti. Siamo una quarantina di teatranti che ruotano intorno al Libero Gruppo di Studio delle Arti Sceniche, che è un laboratorio permanente, diciamo, sull'arte dell'attore e più in generale delle arti sceniche, per cui con questi amici, principalmente colleghi chiaramente, ci ritroviamo da tantissimi anni per discutere quelle che sono essenzialmente le questioni, gli aspetti più teorici del teatro, dell'arte della scena, quindi appunto tutta la questione legata all'atto teatrale. Quindi a un certo punto io ho avuto la necessità di creare questo spazio a Roma per poterci ritrovare, poter appunto stare insieme, presentare i nostri lavori, confrontarci, e essenzialmente quindi in programmazione c'è Luca Stetur con un lavoro sul Macbeth, L'ultimo sguardo, in collaborazione con Claudio Morganti e Rita Songia, che appunto, perché il Libero Gruppo di Studio delle Arti Sceniche, diciamo che è stato proposto e ideato proprio dall'attore e regista Claudio Morganti. Poi appunto la stessa Rita Songia con L'opinione di Zia Angelina, che è un lavoro che su testo e video, ed è una opinione privata su un fatto di cronaca e d'arte, come scrive lei stessa. Poi Teatro Rebis con un lavoro su Kafka, in particolare questa Bambola di Kafka. E poi sono tantissimo Marco Cavicchioli con un attraversamento particolare, insomma un suo studio sullo straniero di Albert Camus. Ti ricordi Albert Camus? Io sono stata ospite. Sì, certo. Una lettura su I saggi solari di Albert Camus. E poi tantissimi del Teatro Patalò invece si è occupato per esempio di tutto un aspetto della formazione, perché Puro Teatro appunto propone sì una rassegna di lavori, di spettacoli che, come puoi immaginare, noi abbiamo in qualche modo dovuto reinventare e rimodulare attraverso delle performance sonore legate appunto a radioframmenti, quindi tutti i lavori sono stati ripensati per la radio. Mentre, ti dicevo, un aspetto centrale, parallelo a quello della rassegna, riguarda il gruppo Cactus, che è un gruppo di giovanissimi attori con i quali io ho un progetto insieme alla cooperativa sociale di psicoterapia medica a Roma da diversi anni, in particolare con la cooperativa dal 2015, all'interno di un progetto di prevenzione proprio sul disagio giovanile. Quindi l'idea è quella di intervenire prima che nasca il disagio attraverso la proposta di percorsi artistici e formativi. Quindi con Andrea abbiamo messo anche questo punto, questo accento appunto sulla formazione, con l'obiettivo nei 3 anni di creare una compagnia di attori. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Ci potete seguire sulla pagina Facebook di Puro Teatro Rassegna, sulla pagina di Teatro Redis, sempre sulla pagina Facebook di Radio Frammenti. Queste sono le pagine essenziali dove poter seguire il SoundCloud di Radio Frammenti, si può scaricare dal cellulare e ascoltare anche sul telefono. Se si vogliono approfondire alcune questioni, il pubblico può scrivere a rassegnapuroteatro@gmail.com. La rassegna Puro Teatro online dal 30 novembre al 23 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Angela Antonini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico, sì, a presto. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Con Marlene Scalise, ideatrice e direttrice artistica della 8ª edizione di Riscarti Festival dal 16 novembre all'8 dicembre 2020. Ben trovata! Io sono sempre la capofila di questo Festival del Riciclo. Spieghiamo a chi ci ascolta cos'è e poi anche arriviamo alla particolarità di quest'anno. Sì, è un festival appunto di arte e riciclo, ovvero opere d'arte, installazione e design fatte con recupero dei materiali, quindi riscattando i materiali che apparentemente sono finiti, esauriti o che magari sono stati già prodotti per avere una data di fine, di scadenza. Ecco, gli artisti quest'anno 20 hanno partecipato, ognuno con la sua propria visione, quindi tutti i tipi di materiali, dal ferro ai tappi, al legno di risulta, alle bottiglie di plastica. Ecco, un modo per comunicare, diciamo, un pensiero ecologico, no? Un cambio di approccio al rifiuto che diventa una risorsa attraverso, insomma, un canale culturale, quindi ciò che cambia poi, che riesce a scardinare mentalmente una dinamica che spesso, troppo e soprattutto nel periodo di Natale, è usa e getta e quindi non si preoccupa delle sorti di questo pianeta e delle risorse che man mano vanno esaurendo. Questa edizione come si svolge? Com'è? Diciamo che ai tempi del Covid abbiamo definito una fruizione mista, come appunto in molti degli eventi, però sicuramente anche in presenza, perché la modalità che abbiamo appunto scelto, cioè riempendo le vetrine di un negozio, quindi di un ex temporary shop che ha chiuso sfitto alla Galleria Alberto Sordi, per cui le opere sono in vetrina e il pubblico è fuori, quindi semplicemente passeggiando tra Largo Chigi e Via del Corso, di fronte al Parlamento, c'è questo appunto manifesto ecologico che attraverso l'arte, attraverso queste 11 vetrine, parla anche al passante più distratto, perché appunto è un'arte che ha una grande forza evocativa, perché nelle vetrine ritroviamo quegli oggetti che abitano il nostro quotidiano trasformato. Per esempio c'è un'icona, simbolo come la Vespa, ecco, la Vespa smontata è diventato un fenicottero rosa, oppure insomma c'è la collaborazione con la Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, per cui c'è uno specchio in vetrina e un gioco ottico del Terzo Paradiso, per cui chi è all'esterno fondamentalmente sente di entrare dentro la vetrina. In qualche modo abbiamo giocato su questa ambiguità dentro e fuori. Intanto denunciamo l'isolamento della cultura e dell'arte in questo momento, perché appunto viene comunque separata da una vetrina, da una mascherina, da una barriera che l'arte in qualche modo cerca di abbattere con la forza del suo linguaggio. Però ecco, la fruizione dall'esterno, oggi abbiamo una premiazione di Fabio Ferrone Viola che ha vinto con la sua installazione Make Art Not War, che è un cannone della US Army dal peso di 200 kg che è tutto ricoperto d'oro e di tappi di bottiglie, no? Come un appello, insomma, alla pace, ma anche al recupero e al riciclo. Quindi oggi dalle 14 premieremo quest'artista, ma staremo all'esterno, mentre le opere appunto, diciamo, acquistano il loro spazio all'interno di questo extemporary shop, dove normalmente vediamo i nostri desideri di acquisto materializzati, e in questo caso sono la creatività, il recupero dei materiali e le opere d'arte. Poi il programma si arricchirà anche di eventi online, quindi con conferenze, con contributi di artisti che fanno performance e suonano strumenti riciclati, ma da casa, quindi noi l'abbiamo chiamati house concert, è appunto una modalità anche questa dovuta ai tempi che viviamo. Sappiamo che comunque siamo interconnessi attraverso i social e quindi approfittiamo anche di queste nuove tecnologie, insomma, per sentirci meno soli. Però ecco, l'invito è a passare fino all'8 dicembre compreso, dalla mattina alla sera, quindi non c'è un orario d'ingresso, proprio perché appunto la strada è libera, per cui dalle 8 di mattina alle 22 si può passare dalle vetrine esternamente, le luci sono accese e le vetrine sono molto suggestive. Ottava edizione Riscarti Festival dal 16 novembre all'8 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice, direttrice artistica Marlene Scalise. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! Grazie a te e grazie a tutti. Con Sara di Tuba, la libreria delle donne, per presentare il festival di fumetto e illustrazione Bande Femme, online dal 5 all'8 dicembre 2020. Ben trovata! Ciao! Ci racconti? Come hai detto, innanzitutto l'edizione di quest'anno sarà digitale, quindi saremo sia sui canali sociali della libreria Tuba e di Bande Femme, che su YouTube, e saremo in diretta da sabato. Ovviamente alcuni incontri sono già stati registrati, altri si svolgeranno direttamente online. Questa edizione paradossalmente parla di corpi, anche se non ci saranno fisicamente, parla di sessualità, parla dei temi, diciamo, che sono da sempre cari a Tuba e quindi cari anche a Bande Femme. Cominciamo spiegando come era nato questo festival e con quali presupposti. Questa è la settima edizione. Nasce per dare uno spazio alle fumettiste, e quando dico fumettiste intendo tutti i mestieri del fumetto, quindi non solo disegnatrici o sceneggiatrici, ma anche letteriste, coloriste, traduttrici, grafiche, e sicuramente mi sto dimenticando un sacco di altri mestieri che ci sono, insomma, in questa filiera editoriale. Un intento che riprendo quello della nostra libreria, ovvero quello di dare spazio a quello che scrivono, quello che disegnano le donne, perché spesso fanno più fatica ad arrivare sugli scaffali, ad arrivare alle vetrine, e quindi a noi invece sembrava che ci fosse tutto un mondo che stava emergendo, che si stava muovendo e che avevamo voglia di raccontare. Quindi così nasce Bande Femme. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo una serie di narrazioni nuove che sono molto interessanti. Penso a delle narrazioni trans a fumetti, per esempio abbiamo l'esordio di Noa Schiatti con Sol Leone per Asterisco Edizioni, e poi c'è la chiusura della trilogia autobiografica di Josefine Iole Signorelli, quindi in arte fumetti brutti. C'è anche il bellissimo Play with Fire di Nicoz Balboa, e poi ci sono tanti altri fumetti molto belli, da Feminist Art di Valentina Grande e Eva Rossetti alla pietra miliare, le figure per dirlo, di Paola Pallottino, che in un incontro bellissimo con Nadia Terranova ci racconta un po' come ha scritto questo libro, che era nato come un dizionario, diciamo, delle illustratrici, che poi è diventato proprio il racconto dell'immersione delle figure delle illustratrici partendo dal 600 ed arrivando a oggi. E poi l'altro aspetto di quest'anno molto bello è il fatto che assistiamo un po' alla nascita di una dimensione collettiva forte per reagire a situazioni spiacevoli. Quindi c'è per esempio un incontro nel quale ci saranno tre fumettiste del collettivo Moleste, che è nato a fine ottobre per lottare contro il grooming e le molestie nel mondo del fumetto. Quindi ci saranno Rita Petruccioli, Sara Pichelli e la giornalista Francesca Torre, che ci racconteranno un po' cosa hanno intenzione di fare con questo nuovo collettivo. Un'ultima considerazione, visto che siamo alla settima edizione, come si sta trasformando, secondo te, dal tuo punto di vista, il mondo del fumetto e dell'illustrazione al femminile? Quello che ti direi è che c'è una dimensione sempre più politica, forse, nel senso che molti dei fumetti che presentiamo quest'anno sono femministi. Poi vabbè, non ci piace molto parlare di fumetti al femminile, preferiamo parlare di fumetti di donne o fumetti che portano una serie di racconti che ci permettono appunto di accedere a una realtà sempre più complessa, anche quando si parla di identità di genere, andiamo sempre di più oltre il binarismo. Devo dire che quest'anno ci sono dei fumetti che sono veramente molto belli e c'è anche una consapevolezza importante. C'è anche, infatti, tra le tavole rotonde abbiamo invitato anche Lucia Isiesta e Cippo Sterarta a raccontarci di come usano il mezzo fumettistico, il mezzo dell'illustrazione, per avere un impatto dirompente nella città, per esempio, nella città che è uno spazio pubblico che spesso non è fatto per essere attraversato dalle donne o da tutta una serie, diciamo, quando dico donne do un'accezione molto ampia al termine. E quindi questo devo dire che è un'edizione molto ricca, ci abbiamo avuto veramente la scelta. Speriamo che il fatto che sia online permetta a molte di seguire gli incontri e di poterli seguire anche, cioè, dal 5 all'8 ovviamente, ma anche oltre, e poi magari a chi ha voglia di passare in libreria in via del Pigneto 39 a Roma, oppure di rivolgersi a Bookdealer per poter leggere anche i fumetti che presentiamo. Tutti i riferimenti web per saperne di più? Ci sono due siti, www.libreriatuba.it e www.bondfam.it. Poi c'è la pagina Facebook di Bondfam, la pagina di Tuba Bazar, e poi saremo anche in diretta su YouTube, in modo che anche chi non ha i social possa accedere, insomma, agli incontri. Ah, e poi ho citato tantissimi nomi, però le invitate sono tante. Ci sarà anche Vanna Vinci, che è appena uscito con un fumetto straordinario che si chiama Parlons d'amour, e Cinzia Ghigliano. Entrambe dialogheranno con Sara De Simone, che cura la rubrica Eccentriche su Femministerie, che poi è diventato un suo progetto che ci racconterà, che è molto interessante a livello culturale. E ci sono anche delle altre chicche, tipo gli Strunkies. Insomma, vi invito ad andare a vedere il programma perché è ricchissimo e sicuramente sto dimenticando cose belle. Bondfam, settima edizione del Festival di Fumetto e Illustrazione online dal 5 all'8 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Sara della libreria delle donne Tuba. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo, ciao. Con Mattia Mura, regista del documentario Voci da Contamina, online da pochi giorni. Mattia, ben trovato. Grazie Federico, ciao. Ci racconti di questo lavoro? Sono stato contattato da Chiara Migliorini, che è l'organizzatrice del festival, è una persona con cui